Avanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti, di Leonardo Manera e Daniele Ceva. Buon pomeriggio, ormai siamo in luglio, nel pieno dell'estate, caro Daniele Ceva. Buono sapersi. Ma ci saremo anche nel resto dell'estate, ci potete ascoltare con qualcosa di già sentito, qualche cosa no, però insomma saremo comunque già, saremo ancora presenti per tutta l'estate con questa trasmissione. Vi terremo compagnia in spiaggia. Oh, si dice sempre così, no? Sì, vi terremo compagnia in spiaggia, tipo a Borghetto Santo Spirito. A Borgio Verezzi. Esatto. Lei va in Liguria in vacanza? No, generalmente. Sì, sono stato qualche volta in Liguria in vacanza. A Varazze. A Varazze, sì, spesso. Negli ultimi due anni sono stato a Varazze. A Celle Ligure, che Celle è lì vicino Ligure. A Varazze. E poi ci sono altri bei posti dove la gente anche si sposa in Liguria, sì, d'estate. Cogoleto. Che è bello sposarsi anche al mare. A Cogoleto. Se vi siete fidanzati da un po' e volete sposarvi, andate a sposarvi in Liguria, da Milano. Esatto. Invece da Marano, per esempio, a Napoli, andate a sposarvi a Pozzuoli. Da Marano, se siete da Marano, di Marano, potete sempre mandarsi delle mail. Perché stiamo parlando di queste cose? Perché è così, non c'è motivo. Non sapevo come iniziare questa cosa e se non con la prossima, con la prima notizia. Perché noi siamo qui a commentare, come sempre, le notizie un po' inusuali che normalmente non trovano le prime pagine dei giornali, né quelli cartacei né quelli online. Allora la notizia è questa, dica lei Ceva, che la vedo interessato alla questione. Insomma, c'è una nuova pare pericolosa moda fitness, ovvero bere il latte materno da adulti, beh certo, il che però adesso non è che tutti cercano di attaccarsi al seno di qualche forse è quello donna che sperano di trovare delle... Dice, potrebbe essere quello lì, no, dice, vabbè, insomma c'è questa nuova moda, il motivo insomma non si capisce molto bene, bisogna stare attenti però che è un po' pericoloso perché il latte materno insomma, può darsi che dentro abbia dei batteri, delle cose che fanno, si trasmettono insomma, anche infezioni in Gran Bretagna. Esatto. Si vendono gelati fatti con latte umano e invece la coppetta ti danno la coppa, nel senso tipo quella del reggiseno, no? Ah, no, la misura gelateria. È quella, cioè... una seconda, una terza, una quarta al latte materno. A me fa abbastanza schifo sta cosa, io non lo so se lei invece che è appassionato di queste perversioni. Allora, non ci sono evidenze sperimentali che possa essere benefico per la salute il latte materno e anzi, al contrario, le affermazioni che possa essere d'aiuto contro le disfunzioni erettili o il cancro non hanno nessuna base scientifica, vede? Sì, ma quindi il fitness cosa c'entra qui? E niente. Vediamo qualche battuta sul latte. Ho preparato del latte di mandorle. Non avete idea di che fatica ho fatto per mungerle. Ne lega uno lei, ce l'ha. Era una latteria che restava aperta anche il 1 gennaio. La chiamavano latteria di Capodanno. È di un anonimo perché tale ha voluto rimanere lui, visto che la battuta non era un granché. Ma ne dico un'altra io, quando bevo molto latte mi sento stanco, ma non del tutto, sono parzialmente stremato. Questa è veramente brutta. Pessima. Penso che sia di Marco Del Conte, questo è il nostro sedicente autore. E allora, riguardo a questa notizia sul latte materno, abbiamo cercato di capire anche cosa ne pensate voi con una telefonata. Vediamo cosa ci avete risposto. Pronto, buongiorno, qui è Radio 24, la conosce? Certo che la conosco, la seguo sempre. Ma lei piacerebbe bere latte materno da adulto? Mi farebbe un po' senso, però non lo so, a me farebbe senso. Lei si ricorda se è stato allattato al seno oppure ha avuto il latte in polvere? No, penso al seno, penso. Perché dicono che il latte materno aiuti poi la salute, i primi anni di vita. Lei di salute com'è stato i primi anni? Ha avuto problemi? No, i primi anni no. E dopo? Non ha avuto cose gravi, epatite, HIV, sifilide? No. Ma lei soffre per esempio di tunnel carpale? No, io non soffro di tunnel carpale, mia moglie sì ha sofferto. Vede che l'abbiamo trovato. Cos'ha? La luce valgo lei? No, neanche. Un po' di compressione a livello della schiena, qualche vertebra, soffre un po' di mal di schiena? Problemi alla schiena e anche alla gamba perché ho avuto un herpes zoster che mi ha lasciato via post-estetica. Senta, altre eventuali patologie, cose fastidiose? Io ho l'aneurisma addominale sotto controllo. Ma lei ha provato per risolvere questi problemi a bere latte materno? No. Va bene, allora noi la lasciamo e la ringraziamo per aver partecipato, grazie, eventualmente ci ascolti. Una cosa dica. Volevo chiedervi, lei chi è? Io mi chiamo Leonardo Manera, andiamo in onda il sabato pomeriggio alle 14.30. Ho capito, lei non è parente di un Manera attore di... che ho visto a, a Zelig eccetera? Sì, sono io. Cari ascoltatori di Radio 24, a proposito di stranezze, abbiamo un'altra notizia che ricaviamo dall'Huffingtonpost.it, Huffingtonpost.it, proprio di questi giorni. La principessa Eugenia di York per il compleanno si traveste da Biancaneve e affitta 7 nani professionisti. Cioè, io ho un aneddoto sui nani. Oh, allora mandiamo la nostra sigla aneddoti senza pretese. Aneddoti senza pretese. No, io una volta stavo facendo come autore una trasmissione televisiva che era Saturday Night Live. Me lo ricordo. E allora a un certo punto avevamo bisogno. Poi ha avuto pochissima fortuna in Italia Saturday Night Live. Cioè, io facevo quello italiano, per quello ho avuto pochissima. La versione italiana, dico. No, non è vero, invece andava bene come ascolti. Aveva ascolti bassissimi. Cercavamo un attore nano e allora abbiamo contattato questo agente dei nani. Questo agente dei nani che va a dire: ah, oh, allora me devi piglia, dai, oh, dai, te faccio, allora mi pigli tutti i 7 nani, me i vesti del giallo, del blu, del rosso, del bianco, così almeno quest'estate se fanno successo io gli mando a fare serate in piazza, così come era nano giallo, era nano bianco. E cioè, no, guardi, non ci interessa, cioè, ma a nana donna, ti interessa a nana donna? Dai, pigliami a nana donna, che poi la vestita come vacanza. E quindi è stata questa telefonata sul viva voce molto assurda e interessante. Questa era aneddoti senza pretese. Non avevo molte pretese, però era attinente alla notizia che abbiamo appena letto. Allora, questa principessa per festeggiare i suoi 25 anni, Eugenia di York, la secondogenita di Sarah Ferguson, del principe Andrea, ha appunto tenuto un party sul tema di Biancaneve e si è noleggiata questi 7 nani professionisti che guadagnano 100 sterline all'ora, che non è male. Il problema è che devi essere nano, cioè lei non potrebbe. E non si può diventare, non è che unici per trovare lavoro divento nano, no? esatto, ma guarda, non sapevo. Per sbancare il lunario mi sono messo a giocare a pallacanestro, ma io sono basso. E poi ci sono quelli che fanno i finti nani. Ne hai mai visti lei dei comici che fanno i finti nani? Sì, ne ho visto uno e a me ha fatto molto ridere. Non si sa perché, ma funzionava in questo. Camminano sulle ginocchia con delle palandrane all'aria. Sì, poi aveva un po' questo atteggiamento alla, se non ricordo, l'omino di Ciribiribin Kodak. Sì, sì. Esatto, cose, insomma, ricordi di infanzia nostri. Beh, il nostro consiglio, se volete fare una festa di compleanno ben riuscita, è di noleggiare dei nani professionisti e vestirvi da Biancaneve. Mia sorella nella vita ha conosciuto alti e bassi e se li è sempre fatti tutti. Eh beh, questo è un classicone di Valerio Peretti. Sai cosa porta Biancaneve in spiaggia? Porta gli asciuganani. Questa è mia bella. Eh beh, insomma, tutte le volte che Biancaneve diceva vado di là a farmi un pisolo, Brontolo si incazzava. Però guarda che ha fatto un bel successo la storia di Biancaneve e sette nani. Insomma, sì, è strana. Perché ha sempre anche quell'aspetto erotico che tutti pensano, Biancaneve in casa con i 7 nani. C'è sempre, in ogni storia, lei ha mai fatto caso di tutte un po' le storie, le fiabe, i racconti che ci fanno crescere, che ci formano. C'è sempre un rimando a qualcosa di comunque di psicologico molto profondo e soprattutto di sessuale. È bella questa nota che lei dà, così interessante. Sai, a me piace, mi divertono. A proposito di racconti sulle fiabe, mandiamo aneddoti senza pretese. Aneddoti senza pretese. Io ho un bambino di 6 anni, si chiama Beniamino. Guardate che è una notizia vera. Beniamino, che salutiamo, che ogni tanto ci dà, ci aiuta. Però io gli racconto le favole prima di andare a dormire, ma ho notato che se gli racconto le favole interpretandole, lui non dorme perché si eccita, si agita. Certo, allora devo raccontargliele in tono monocorde, assolutamente senza nessuna intenzione. Soporifero. Quindi anche l'evento più spaventoso che ci può essere in una fiaba, io gli racconto in tono neutro. futuro è assolutamente identico a come era prima. E quindi lui uccise la mamma di Bambi. Questo è l'unico modo per farlo addormentare. Quindi, bambini, se avete figli che non dormono, raccontategli le fiabe più spaventose, ma in modo assolutamente... Raccontategli l'uccisione della mamma di Bambi come se fosse la ricetta di una crostata alle mele. È l'unico modo per farli dormire. Bene, dopo questo consiglio utile per i genitori, vogliamo anche dare consigli utili. Veniamo all'ultima notizia che diamo in questa prima parte di avanzi di maniera. Allora, è questa: regala alla sua donna, questo signore, la notizia arriva da today.it, regala a questo signore alla sua donna un anello di fidanzamento fatto con l'osso della sua gamba. Guarda che cosa originale. Ha presente l'osso buco? L'osso buco, sì. L'osso buco e l'ha messo al dito alla fidanzata. È successo questo, loro erano insieme a fare volontariato. Sì. Lui ha avuto un incidente, è caduto una montagna, è rimasto vivo per miracolo, ma i medici non sono riusciti a salvare la sua gamba che gli è stata amputata. Sì, ma lui l'ha conservata, ecco. Non l'ha buttata via, perché giustamente insomma, è un ricordo. Perché appendere una bella gamba, un po' come un trofeo di caccia, al muro di fianco a una testa di cinghiale. Poi più tardi lui ha chiesto a lei di sposarlo, ma prima di aver girato artigiani e gioielli ha pensato di farle un anello di platino con un diamante da un quarto di carato. Insomma, contenente un pezzo di osso della gamba. Questo è veramente incredibile. Qual è il regalo più strano, più insomma significativo che lei ha fatto a una donna? Ah, non ricordo, cioè dovrei pensarci. Significativo ben poco, io niente, ho fatto. Ne? Un regalo importante che una donna ha fatto a lei, se lo ricordo. Regali importanti che donne hanno fatto a me, credo nessuno. No, a me no. Il regalo che ha colpito di più è l'unica volta che una donna mi ha regalato dei fiori. Non mi è mai capitato. Dei fiori? Sì. Ah, allora, sa una cosa, le posso dire, visto che me lo ricorda. Io ebbi una piacevole storia con una ragazza. Si sta vantando, non è vero? Mi sto vantando. No, non so se mi sto vantando o meno. Il discorso è questo qua. Che dopo che sono erano in un'altra città lontana e il giorno dopo in ufficio mi sono arrivate 17 rose rosse, tipo una cosa del genere. E quindi ero anche molto imbarazzato perché lavoravo in questo ufficio con tutte donne, era un'agenzia di viaggi, e mi arrivò ovviamente questo mazzo di rose rosse e io ne fui un po' imbarazzato. Donne, regalateci dei fiori. però fu molto piacevole. Ma è bello per un uomo ricevere dei fiori da parte di una donna. Sì. Va bene, siamo ai nostri, prima di finire con la prima parte di avanzi di maniera, con i nostri scherzi telefonici venuti male. Scherzi telefonici, scherzi telefonici venuti male. Pronto? Buongiorno, sono Maria De Filippi. Siccome ho saputo che lei è una bella donna, volevo sapere se vuole partecipare alla prossima edizione di Uomini e Donne Terza Età. Ma neanche per idea, arrivederci. Pronto, buongiorno, sono Maria De Filippi. Siccome ho saputo che lei è un bell'uomo, volevo sapere se vuole partecipare alla prossima edizione di Uomini e Donne. Pronto? Chiuso, anche questo direi che c'è stato un successo, questo scherzo. Hanno capito telefonico. Subito che era uno scherzo, quindi hanno riattaccato, certo. E quindi anche siamo riusciti. Che lei non era la De Filippi. Anche se l'ho imitata bene, benissimo. Ma oddio, sembra sempre un po'. Pronto, sembra sempre un po' l'impressione filippina che la frega. Per la De Filippi, l'impressione filippina va bene. De Filippina. De Filippina, traffico. Avanzi di maniera. La rassegna stampa che non ti aspetti. Allora, siamo ancora qui nei raffrescati studi di Radio 24 in questa estate che ormai procede senza indugio verso... È appena iniziata ma è già finita. La festa appena cominciata ormai è già finita. Se la ricorda questa canzone? Sì, ma sono stato anche in terapia per farmela rimuovere. Era di Sergio Endrigo, se la ricordo. Se la ricorda Via Broletto di Sergio Endrigo? No. Se passate da Via Broletto al numero 34, una storia d'amore finita male. Intanto non le arriveranno mai dei diritti di Sergio Endrigo, può cantarle tutte. Allora, noi continuiamo a dare le nostre notizie. La notizia è questa, adesso ve la diciamo perché d'estate si mangia sempre pesce. Non si sa perché, lo dice anche Paolini del Gastronauta. volta, che però insomma, si mangia molto più pesce d'estate. Perché tanta gente è al mare che durante il resto dell'anno. Invece a Roma una frittura di pesce è stata trovata piena di larve e blatte, chiuso il ristorante al Pigneto. Larve di insetti nella frittura di pesce, ce n'era in grande quantità, quindi sono entrati in questo ristorante, hanno spiegato i clienti di aver consumato presso il locale due fritture miste e di aver trovato all'interno le stesse alcune larve, mostrando il piatto direttamente agli agenti giunti sul posto. Ed era pieno di scarafaggi, anche la cucina era piena di scarafaggi. A me è capitato una volta di ordinare un'insalata, sì, e di trovarla piena di formiche vive che si muovevano sul fondo. Beh, del piatto. L'insalata era buona, fresca, raccolta proprio dall'orto. No, e però il proprietario qua ha sostenuto che fossero scarafaggi di mare appena pescati. Però lei sa che dicono tutti che gli scarafaggi saranno il cibo del futuro, gli insetti, perché certo, sono pieni di proteine. Lei non ha mai mangiato le formiche, adesso a parte gli scherzi. Non mi è mai capitato. Io le ho mangiate. La formica, allora, intanto consiglio per mangiare le formiche. Le formiche vanno non prese con le dita, perché rilasciano il famoso acido formico, no? Che è quello che dal gusto, cioè se lei lecca una formica direttamente dall'albero, vada in un bosco, quindi dove questa domani formica... vado a leccare una formica, esatto, nell'albero. le rilascia questo l'acido formico, quindi le sembra un po' di leccare una gocciolina di limone, un po' aspra, ma è interessante come gusto. Non è una come cosa faccio, da non se escludere. Devo prenderle con le dita, come faccio a mangiarle? Lecco direttamente, perché se le dall'albero, dalla terra. No, dalla terra no, dall'albero. Diciamo, ma allora, andate in giro nei boschi a leccare il bosco. Sappia che io l'ho fatto nella vita. Quindi lei può confermare che l'insetto, la formica nella fattispecie, è un cibo appetibile. La formica sì, farei molta fatica a mangiare invece delle larve, delle quali se ne sente la consistenza e la croccantezza, mi farebbe un po' schifo. Ho inventato un insetticida infallibile spruzzato sulla pianta, questa perisce, gli insetti poi muoiono di fame. Abbiamo una telefonata, no? Una telefonata per sapere se insomma il cibo, quello degli insetti, è un cibo che vi attira oppure no. Vediamo. Pronto? Pronto, buongiorno, qui è Radio 24, la radio del sole 24 ore, la conosce? Ho attaccato subito questa. Pronto, buongiorno signora, qui è Radio 24, la conosce? No, e non mi interessa. Ha chiuso anche questo. Pronto? Pronto, buongiorno, qui è Radio 24, stiamo raccogliendo dei pareri. A lei, per esempio, l'idea di mangiare degli scarafaggi fritti o anche delle larve è una cosa che, insomma, trova possibile o no? Io la devo salutare perché devo uscire. Dove va? Arrivederci. Dove va, signora? Ci dica solo dove va. Pronto? Pronto, buongiorno, qui è Radio 24. Lei li mangerebbe gli scarafaggi fritti, per esempio, oppure una cosa che assolutamente mai? Magari se uno va in gita in Africa, lì è cibo quotidiano, no? Quindi. Le è mai capitato di mangiare piatti strani, anomali? Ma di solito quando vado in posti mangio quello che c'è. Cos'è la cosa più strana che le è capitato di mangiare? Ah, non saprei al momento. La trippa di maiale può andare bene? Beh, no, la trippa di maiale si mangia molto anche qui in Italia. Qualcosa di più anomalo, pure la cosa che le ha fatto più impressione? Ah, non saprei ora. La cosa più buona? Ma noi che andiamo bene a pici. Pici all'aglione. Che cos'è? I pici, sono una pasta, scusi, buongiorno. Sì, sono Daniele. È una pasta, no? I pici sono pici, ma scusi, ci dica come si fanno, come si cucinano. E che ne so io, dai, io mangio. Però sempre parlando di cibo, abbiamo questa notizia che ricaviamo dall'Huffington Post, che ci dice quali sono i 5 cibi che accelerano il processo di invecchiamento, cioè che fanno venire le rughe proprio, non che ti fanno morire prima, ma che ti fanno invecchiare male, ti fanno sembrare più brutto, ti fanno anche diventare spiacevole agli occhi delle persone che non si vogliono più avvicinare a te. Abbiamo capito. Perché hai un'età molto superiore a quella che dimostri e quindi le persone pensano che tu sia anche malato, magari con delle malattie infettive. E col riso magari che le rimanga così morto tra le braccia, quindi preferiscono evitarti. Ma dai, con la vita è bella. Ma poi è così importante adesso anche d'estate l'aspetto fisico, ma insomma chi se ne frega. Ma l'aspetto fisico, allora, ho visto un bellissimo film ieri sera, ho visto una donna bellissima in metropolitana. Sai quelle donne che proprio dici, caspita, questa è una donna, avrei subito voglia di fare sesso con lei. Sì. Era in metropolitana, aveva una gonna corta, probabilmente, forse aveva reggiseno ma non si vedeva neanche, e vabbè, niente, non la dico neanche perché poi sembra di essere un maniaco, basta. Aneddoti senza pretese. Questo è un aneddoto senza conclusione. È un aneddoto senza aneddoto anche. No, però io ho visto, però se per caso lei ascoltasse Radio 24, questa signora con la gonna corta e le scarpe col tacco alto beige, i capelli neri, un bel seno procace, anche gambe molto si ricordi di Daniele Ceva di Leonardo Manera, il maniaco della metropolitana. L'ho seguita per un pezzo anche dopo sulle scale, coda per uscire maniaco, da... anche se lei non doveva scendere lì, è sceso apposta. Allora, noi siamo alla nostra rubrica che è le idee di Daniele Ceva, ovvero idee entusiasmanti per nuovi palinsesti televisivi. Sono mesi che le proponiamo, okay. Il risultato è pari allo zero. Vabbè, comunque proviamo anche con questa sigla. Le idee di Daniele Ceva. L'idea di oggi per una può essere sia sitcom che invece fiction, che insomma anche una cosa un po' più drammatica, senza aspetti comici, che è nudisti in guerra. Mm-hmm. Cioè è tutto ambientato dentro una caserma di militari nudisti. Basta. Vedo che questa settimana ha prodotto molto. Ti spiego lo svolgimento. Non è vero, lo svolgimento è interessante, vedere le operazioni di guerra fatte anche in posti molto pericolosi, che ne so, in Afghanistan, in Iraq, in questi scenari pericolosi, dove questi soldati sono completamente nudi. Potrebbe addirittura, in alcuni casi, questa è la mia idea, in alcuni casi il nemico, trovandosi di fronte a un esercito di persone nude, e a un certo punto diventa incuriosito, desiste dal combattere, si trova di fronte a un uomo inerme, senza armi, e quindi una sorta di guerra pacifista. A proposito di nudi, mi è venuto in mente questo aneddoto che capitò a mio amico. Quindi diventa la rubrica dentro la rubrica, questo. Sì. Cioè lei vuole entrare con la rubrica aneddoti senza pretese dentro le idee di Daniele Ceva, uno spin-off. Esatto, l'aneddoto è questo mio amico di Napoli che si chiama Gaetano, che per caso mi stesse ascoltando lo saluto. Allora lui frequentava una ragazza tanti anni fa, e una sera si erano accoppiati sul tappeto del soggiorno dove abitava questa ragazza con i genitori, che erano fuori casa. Certo. Però poi, dopo aver fatto l'amore, si erano addormentati sul tappeto di casa entrambi nudi. Arriva il padre della ragazza, che era stato fuori credo con la madre a dormire, arriva e vede entrambi nudi sul tappeto. Il padre, il ragazzo nudo si emoziona, diciamo che forse ha vissuto un momento leggermente imbarazzante. Allora si alza, va di fronte al padre nudo, dice: sua figlia, io l'amo, e se ne va. Ma aneddoti senza pretese. Era senza pretese, ma mi ha fatto ridere. Va bene, allora vogliamo salutarvi come sempre con un ultimo momento di avanzo di energia e di poesia, allegria. Una poesia allegra che induce al buon umore per il sabato pomeriggio e sabato sera. Sabato pomeriggio. Quindi allora qua, ok, cambia l'incipit. Occhi, sguardi, speranze che si consumano segrete all'ombra di un telefono, ipotizzando l'amore, che sbiadisce. Perché? Che sbiadisce nella foschia di una grigia e plumbea mattina d'agosto, che appassisce agonizzando il tramonto di un amore ormai amaro. E con questo buon sabato di allegria, felicità e amore. Allora, che sbiadisce. Sbiadisce, l'amore sbiadisce. Beh, insomma, però dobbiamo dire anche che c'è chi invece l'amore lo vede nascere. Ad agosto si sposerà il nostro curatore Guido Scotti, quindi grandi auguri. Ma che però dai, quel momento lo vedrà sempre sbiadire. Più sbiadire. Bella Radio 24. Allora, prima di salutarvi, vogliamo ricordarvi che è tutta la settimana che Radio 24 va in onda dall'Expo o Expo. Non ho ancora capito se è Expo o Expo. Exposition. E questa sera ci saremo anche noi con una puntata speciale dalla 19 19 alle 20. Lo studio di Radio 24 è all'ingresso del padiglione Cibus Italia, nella zona est di Expo, per cui se volete venirci a trovare, l'ingresso consigliato è Roserio Est. Se invece siete già dentro, venite a trovarci lo stesso. Bene, ringraziamo Grazia Gala curatrice, Paolo Corleoni regista, Marco Del Conte autore, Daniele Ceva e Leonardo Manera. Buon fine settimana a tutti. Buon fine settimana a tutti.